Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Rossella Vignieri di Arci Bologna, che è in collegamento telefonico con noi. Rossella, benvenuta sui 103.1. Grazie, grazie a voi. Arci Bologna ha presentato la ripartenza del progetto Montagnola Bologna dopo la vittoria del bando di assegnazione dell'ex casa del custode. Ti chiederei un po' di raccontarci di che cosa si tratta. Sì, in realtà noi in Montagnola non ci siamo mai fermati, ormai Arci è più di 10 anni che organizza e propone attività culturali e sociali all'interno del parco. La novità è che da pochi mesi siamo risultati assegnatari dell'ex casa del custode. Abbiamo vinto un bando promosso dal Comune di Bologna e abbiamo firmato la convenzione proprio in questi giorni e quindi dopo alcuni anni in cui abbiamo investito molte energie anche a causa della pandemia sulla rassegna estiva Montagnola Republic, che ormai è un appuntamento molto conosciuto e atteso da tutta la città, che ci vede impegnati durante tutta l'estate per oltre 3 mesi con tantissime attività, concerti e iniziative all'interno del parco. E da questo momento il nostro obiettivo è quello di provare a sperimentare delle attività e delle proposte culturali anche nel periodo più difficile all'interno di un parco, che è quello invernale. E quindi ripartiamo con innanzitutto un progetto culturale e sociale che trova casa proprio dentro l'ex casa del custode, dove vivono e convivono diverse realtà culturali molto conosciute in città. E dentro l'ex casa del custode in questo momento è operativa la casa editrice Canicola, e c'è l'etichetta di musica underground Maple Death Records, che tra l'altro ha organizzato insieme a noi Smania, che è questa 2 giorni con oltre 40 etichette indipendenti, che si è tenuto proprio lo scorso fine settimana. Se c'è l'associazione Crudo, che organizza Fruit Exhibition, e poi ci sono anche dei progetti sociali portati avanti dalla cooperativa CIDAS e l'associazione Arci Solidarietà, che si occupano soprattutto di iniziative legate al tema dell'accoglienza e dell'integrazione. Quindi diciamo che questo è un po' il cuore del progetto, che poi chiaramente ha dato vita a una serie di attività che stiamo già realizzando sia all'interno delle casa del custode, ma anche e soprattutto all'interno della tensostruttura. Sono delle attività, delle iniziative rivolte a un pubblico di ogni età. Sono in programma delle attività rivolte ad adolescenti, dei laboratori che verranno realizzati anche in collaborazione con le scuole, come per esempio il percorso Staffette Partigiane che realizziamo insieme a Canicola, proprio per lavorare sul tema della memoria e della resistenza. Nel periodo di Natale ci saranno dei laboratori, degli spettacoli teatrali organizzati insieme a Cantieri Meticci e Fantateatro. Abbiamo ospitato anche dei concerti musicali insieme all'associazione Arci Time to Bo. Quindi insomma stiamo cercando di fare in modo che la Montagnola torni davvero ad essere attraversata e vissuta non soltanto durante il bel tempo, durante la primavera e l'estate, ma che sia attraversata davvero da tutta la città durante tutto l'anno. Quello di dicembre è un calendario ricco di appuntamenti culturali, come dicevi tu, tra musica, laboratori, mostre, spettacoli, un po' per tutte e per tutti e un po' per tutte le età. Ne hai già citati alcuni, ti volevo chiedere nello specifico quali sono gli appuntamenti di questa programmazione per il mese di dicembre, o poi anche quali saranno le programmazioni dei mesi futuri, se ci puoi fare qualche anticipazione. Allora, diciamo che per nelle prossime settimane, visto che anche ci avviciniamo alle festività, abbiamo pensato di dedicare alcuni appuntamenti, come dicevo prima, soprattutto ai bambini e alle famiglie. Quindi ci saranno degli spettacoli a cura di Cantieri Meticci. Il 18 dicembre ci sarà una lettura per bambini a cura di Francesca e Aston di Cantieri Meticci. Domenica 19 dicembre ci sarà un'altra lettura per bambini, Il martello di Jasmine, e poi a ridosso del Natale, subito dopo Natale, il 26 dicembre, il 5 gennaio, il 9 gennaio ci saranno degli spettacoli organizzati e promossi da Fantateatro, quindi diciamo che nelle prossime settimane saranno questi gli appuntamenti che realizzeremo all'interno della tensostruttura. Ci tengo anche a dire che la tensostruttura, che è questo spazio al chiuso che ci permette quindi anche di portare delle attività durante il periodo invernale, è aperta anche a iniziative che possono essere organizzate direttamente da associazioni e realtà culturali che per esempio durante questo periodo di Covid magari hanno bisogno di uno spazio dove realizzare le proprie attività, magari hanno perso il loro spazio, e quindi noi mettiamo a disposizione anche delle realtà questa struttura. In più abbiamo anche ha fatto un accordo con il Patto per la Lettura per mettere anche a disposizione a costi agevolati la struttura proprio alle librerie indipendenti che sono state colpite durante il Covid. Quindi comunque l'appello che faccio è anche quello a se ci sono delle proposte culturali, per noi questo deve essere proprio uno spazio della città, ma anche delle realtà culturali della città che vogliamo mettere a disposizione della città. Per quanto riguarda il nuovo anno, ci sarà sicuramente una collaborazione su cui stiamo già lavorando con la Fondazione Gramsci, con cui abbiamo intenzione di lavorare sui temi ambientali, organizzando alcune iniziative, alcuni incontri con esperti, ricercatori, ma provando poi a lavorare insieme alle scuole portare anche dei laboratori e cercando di lavorare con i ragazzi proprio sui temi ambientali, che sono dei temi insomma che riteniamo assolutamente fondamentali in questa fase. Quindi in questo momento quello è una delle iniziative su cui stiamo lavorando, e poi sicuramente ci sarà spazio per la musica e per altre attività su cui stiamo lavorando. Insomma, al momento non ho grandi anticipazioni. Rossella, io ti ringrazio di questa chiacchierata e ti auguro all'Arci Bologna, alla Montagna La Bologna una stagione ricchissima, come del resto anche ricchissimo il calendario di appuntamenti. Quindi ancora grazie e a presto. Grazie a voi, grazie, a presto.